Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. E 35 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. In diretta da Trento, ma anche da Milano, vero Carlo? Certo che sì. E sono Milano rimasto... Monterosa, cominciamo esatto, subito. Cominciamo subito perché c'è della pioggerellina. Siccome sappiamo che voi ascoltatori siete ormai affezionati al meteo solamente di Milano Monterosa, io sono dovuto rimanere a Milano e purtroppo non sono a Trento. E allora qua invece c'è un tempo moderatamente soddisfacente, un po' nuvoloso, non piove ancora qua, vabbè, non piove. Mi sembra che come sempre sei messo meglio. Insomma, ce la caviamo, ma qui si fanno gli scongiuri perché invece potrebbe arrivare acqua a catinelle. 800 24 00 24, un'altra mattinata insieme, cari ascoltatori. Non sarà semplice parlare di cose leggere dopo una serata come quella di ieri, dopo quello che è accaduto a Londra, un vero e proprio attentato, 6 vittime, 48 feriti, l'ultimo bilancio della polizia inglese, e quello che è accaduto anche a Torino, dove per il panico ci sono stati un migliaio di feriti, lo sapete benissimo, ce ne sono anche alcuni che sono in condizioni piuttosto gravi. Vi daremo naturalmente degli aggiornamenti se si arriveranno. Cerchiamo di non regalare troppo ancora una volta agli idioti del terrore, per fare una vecchia citazione di un antico profeta italico: è difficile restare calmi mentre tutti intorno fanno rumore. Ti ricordi, Carlo? Certo. Il grande Franco Battiato. Esatto. Certo, detto da, dopo averlo chiamato profeta, giustamente sì. ti lasciavo nominarlo. Non sarà Milan Kundera o Saviano, che qui al Festival dell'Economia di Trento è di casa, è un po' meno, ma insomma ci accontentiamo. 800 24 00 24, parleremo comunque di un argomento importante, perché in una settimana come questa cercheremo di capire un si può fare interrogativo con cui partiamo. Possiamo ancora fidarci dell'omeopatia dopo quello che è accaduto, ahimè, al piccolo Francesco di Ancona? E insomma, questo è l'argomento da cui partiamo tra poco. 800 24 00 24, ripeto il numero verde per intervenire in diretta, per commentare, anche per così diciamo condividere la frustrazione sportiva per comunque una ennesima sconfitta. Ho dato un'occhiata, siamo ormai credo in cima alla classifica delle squadre che hanno perso la finale di Champions League, credo che in realtà è un pezzo anche, lo so, non è certo oggi il giorno giusto per dirlo, è un pezzo anche di buona notizia andare spesso in finale, e certo, spesso perderla non è una buona notizia, però è il pezzo sbagliato, diciamo così, meglio secondi che decimi, ecco. Assolutamente, beh, insomma, magra consolazione per gli amici juventini, ma è così. Oggi da Trento, ve lo dico, un importante appuntamento: il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Nei giorni scorsi è stata la volta del ministro Lorenzin, con annesse polemiche dei movimenti anti-vaccino, e ieri del ministro dell'economia Padoan, che ha risposto da Trento a Renzi sulla manovra. Non ho intenzione di sprecare la manovra di bilancio, non è certo interesse di un ministro dell'economia, ha detto Padoan, ma insomma forse qualche attrito c'è. Renzi continua a chiedere abbassamento delle tasse, forse Padoan e Gentiloni avrebbero magari qualche idea diversa per investire, fare investimenti, chi lo sa. Diciamo questa che c'è, è la chi è già, c'è chi è già in campagna elettorale e chi invece cerca di trovare una soluzione al momento. Però noi vi abbiamo dato il numero 800 24 00 24, anche perché cerchiamo un personaggio della settimana. Esatto, e allora vado subito a darvi il primo indizio: si tratta di un personaggio che resiste, quindi cominciate a pensare a un personaggio, una notizia degli ultimi 7 giorni, un personaggio che resiste. 800 24 00 24. se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5% del voto degli italiani, è evidente che non possiamo fermare tutto per dare un potere di ricatto ai partitini. A me di quello che è accaduto in passato, siccome ritengo conclusa la mia collaborazione e la nostra collaborazione con il Partito Democratico, poco interessa. La nostra partecipazione alla formazione di una legge elettorale serve ad arginare l'inciucio tra Renzi e Berlusconi. Vabbè, queste sono le schermaglie preelettorali con questo accordo Forza Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle su un sistema tedesco all'italiana, e la sensazione è che nel passaggio della frontiera qualcosa si sia perso, ma staremo a vedere su questo naturalmente. 800 24 00 24, cari ascoltatori, però se volete intervenire anche sugli argomenti politici della settimana siamo qua in questo tutto orecchie, perché facciamo anche una cavalcata sulle notizie principali degli ultimi 7 giorni. Il commissario europeo per la salute Andriukaitis lancia un allarme per il possibile ritorno della poliomielite in Europa. Avete capito bene, ascoltiamo il parere di Roberto Burioni, medico docente di microbiologia, che come sapete ha ingaggiato una battaglia durissima, muro contro i Novax. È dal 1982 che in Italia non c'è più la poliomielite, però purtroppo nel mondo ancora la poliomielite c'è in Nigeria, c'è in Afghanistan, c'è in Pakistan, perché purtroppo in questi paesi ci sono guerre, ci sono difficoltà sociali che impediscono una vaccinazione estesa. Purtroppo in alcune zone del nostro paese, dove sono molto attivi i gruppi antivaccinisti, la copertura è insufficiente. E quindi se malauguratamente una persona con la poliomielite, mentre elimina il virus, dovesse malauguratamente arrivare nel nostro paese, ci potrebbe essere il rischio. Il rischio che possiamo evitare semplicemente alzando le coperture vaccinali. Qua con questa Bad Medicine di Bon Jovi siamo a discutere di questo, perché mentre la settimana scorsa abbiamo salutato il posizionamento felice al 5° posto dell'Italia secondo la rivista scientifica Lancet come migliore sistema sanitario al mondo, siamo qui a discutere di gente, di persone che non si fidano, non si affidano dei vaccini, il ritorno della poliomielite, e invece di chi si affida e si fida quasi però solo esclusivamente di cure naturali o di omeopatia. È il caso di Ancona, dove come sapete un bambino è morto per un ascesso cerebrale conseguente a un'otite batterica curata però in modo inefficace solo con l'omeopatia. Se ne è parlato molto durante questa settimana, però non è un caso unico, ci sono stati purtroppo altri casi simili. Anche i genitori probabilmente sono stati forse ingannati da dei professionisti che però proponevano cure che si sono rivelate assolutamente inefficaci, come l'omeopatia, per patologie potenzialmente inadeguate, mortali, come queste infezioni o altre cure, malattie molto gravi. Allora noi ci chiediamo, possiamo ancora fidarci dell'omeopatia? C'è qualcuno che controlla che questo tipo di cure vengano applicate laddove è possibile, per prevenire, per migliorare la qualità e il benessere della nostra vita, ma non certo per curare malattie gravi come quelle di cui stiamo parlando? Abbiamo invitato per essere con noi, e la ringraziamo, Antonia Ronchi, medico, presidente della Federazione Italiana Associazione Medici Omeopati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, ci possiamo ancora fidare dell'omeopatia? Ci chiediamo, siamo in grado di riconoscere per tempo quando un medico, come è accaduto nel caso di Ancona, utilizza in modo sbagliato, scorretto, inappropriato, come terapia esclusiva, escludendo terapie più efficaci e salvavita come gli antibiotici in questo caso? Siamo in grado di riconoscere tutto questo? Lei che idea si è fatta del medico omeopata che curava il piccolo Francesco di Ancona, dottoressa? Ma dunque, innanzitutto sicuramente c'è stato un errore medico, non tanto, cioè anche un errore omeopatico, ma un errore medico, in quanto di fronte a una situazione che non si risolve nei primi giorni, chiaramente ci vuole una strategia più aggressiva, più forte, no? Quindi l'omeopatia non è una medicina, diciamo, che non è in grado di curare una otite in una fase iniziale. Esistono addirittura studi, quelli proprio classici della medicina ufficiale, in doppio cieco, randomizzati, che dimostrano che l'omeopatia utilizzata correttamente nei primi 3 giorni di malattia può essere in grado veramente di risolvere una otite. L'otite catarrale media come quella del bambino, probabilmente da cui è partita poi la complicazione che ha portato all'ascesso cerebrale. Il problema è, cioè, quindi nei primi giorni, dottoressa, nei primi giorni, dottoressa, quindi nella fase in cui l'infezione si è già sviluppata, certo, o non, esatto, si è ancora sviluppata? Esatto, in quella fase una medicina omeopatica ben gestita è in grado, e questo lo dimostrano appunto studi sia osservazionali che studi invece proprio condotti come trial in doppio cieco, randomizzati, dimostrano che è possibile fare una cura omeopatica efficace. Il problema, ecco, però, è detto, che se, ecco, veniamo al caso specifico, perché abbiamo degli elementi di cronaca caso, che ci sospettiscono. Evidentemente no, cioè dopo 3-4 giorni non è possibile insistere con una cura che non sei stato in grado di applicare nel modo corretto. Quindi il medico è come se avesse una cassetta degli attrezzi con tanti attrezzi diversi, no? Noi però come omeopati usiamo voglio prima questo e poi scegliamo quello che invece in quel momento è necessario. L'esempio, l'esempio mi sembra molto preciso, perché giustamente lei dice ogni medico ha una cassetta degli attrezzi, certo, poi se uno certo usa male un attrezzo, però non vuol dire che bisogna eliminare quell'attrezzo, nel senso che evidentemente c'è un medico che ha usato male un martello, ma esatto, io metterei sotto processo il medico e non il martello. Esatto, cioè infatti, io, è quello che, infatti è quello che sta accadendo, il medico è indagato, ma anche i genitori sono indagati, io glielo voglio chiedere adesso, poi facciamo una piccola pausa sulle informazioni sul traffico, mi risponderà tra 2 minuti. Cosa si può dire di questo medico che al di là dell'avere iniziato una cura che poteva essere compatibile con l'omeopatia, una cura per un'otite iniziale, addirittura sappiamo che essere stato chiamato mentre il bambino era ricoverato al pronto soccorso dalla famiglia, essere intervenuto direttamente in questa vicenda, e quindi anziché mollare e applicare correttamente, come diceva lei, le cure necessarie per salvare la vita del piccolo Francesco, continuava a invece a invitare la famiglia ad usare l'omeopatia, ad usare quelle medicine e a non curarsi nell'altra maniera. Parliamo però di, e questo è il punto, dottoressa, di un medico omeopata che aveva la fila di mesi di persone che andavano a curarsi da lui, quindi evidentemente qualche cosa che non va c'è in quel medico, ma anche nelle persone che decidono di rivolgersi a questo tipo di cure. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Allora, dottoressa Antonia Ronchi, presidente della Federazione Italiana Medici Omeopati, come prendere le distanze dal dottore del caso, dal dottor Mecozzi, dal dottore del caso del piccolo Francesco? Va escluso, va radiato, bisogna aspettare naturalmente delle evidenze anche dal punto di vista giudiziario, però quello che già sta emergendo dal punto di vista della cronaca, l'ho ripetuto poco fa, è abbastanza inquietante. Un accanimento terapeutico con l'uso di medicine che, come lei stessa ci ha rivelato poco fa, a un certo punto si rivelano inefficaci, ci vogliono i benedetti antibiotici. Come prendere distanze da dottor Mecozzi? Allora, io premesso sono un medico, non sono un giudice, quindi non posso entrare in termini di tipo giuridico. Io quello che posso dire ai pazienti è quello che il rapporto col medico è sempre un rapporto, che deve essere sempre un rapporto intelligente, mi permetta la parola, no? Anche nella medicina convenzionale, addirittura in Svizzera anni fa, era partita una campagna che diceva chiedi un secondo parere. Quindi questo fa parte del rapporto che deve essere instaurato tra medico e paziente. È vero che con la medicina omeopatica si instaura un rapporto particolare col paziente, perché c'è un ascolto maggiore, perché c'è una disponibilità maggiore da parte del medico. Ma questo non deve togliere ai genitori in questo caso, o comunque al paziente, la lucidità di capire che le cose stanno andando non nel modo giusto e che bisogna cercare un'altra soluzione. Quindi in parte anche questo probabilmente dipende, sì, da questo rapporto che si instaura, cioè il fatto che il medico avesse 4 mesi di... No, è chiaro, dottoressa, però, chiaramente... però non mi ha risposto sul punto. Io capisco quello che lei sta dicendo ed è corretto il rapporto intelligente con il medico. Questo però ha a che fare con il paziente, con i genitori, del bambino. Ma io le chiedo un giudizio sul medico. Sbagliato, cioè... appunto anch'io non conosco i fatti, li conosco per quello che ho letto sui giornali. Sicuramente nel momento in cui il bambino si aggrava e lui sconsiglia di andare in ospedale, sconsiglia una terapia di tipo diverso, sicuramente ha sbagliato. Però voglio fare un passo in più, le vorrei chiedere, secondo lei questo errore ripeto, naturalmente non siamo qua a fare il processo, però siccome non è un caso isolato, perché ci sono stati altri casi, li posso citare, un bambino morto a 4 anni per una polmonite, Luca Monsellato, un altro caso di una bambina non curata per il diabete con l'insulina, errori, come dire, che nascono incidentalmente o nascono da una convinzione perché ripeto, code di mesi dal dottor Mecozzi, per curarsi, forse per questa capacità di ascolto, di tenere all'attenzione delle famiglie, però un medico che chiama la famiglia mentre è al pronto soccorso con un bambino in fin di vita in vita... Non può essere un errore questo, è qualcosa di più. Però evidentemente ne ha anche salvati molti di bambini, perché sennò non avrebbe la coda fuori. Certo, ma questo non possiamo capire, cioè è un qualche cosa che mi sfugge, cioè francamente non riesco a capire come una persona che sicuramente ha avuto una buona pratica, diciamo, poi abbia potuto avere un comportamento del genere, ma questo non posso valutarlo perché non lo so. Io quello che posso dirle è che ho partecipato negli anni scorsi alla stesura di un documento che è una norma europea proprio su quello che sono le prestazioni, i servizi offerti da un medico omeopata. Lì dentro è scritto con chiarezza tutto quello che il medico omeopata fa e non fa, no? E questo è un riferimento importante che sto cercando anche di promuovere, di far capire, no? che esiste, perché lì si dice molto chiaramente qual è la competenza del medico omeopata, dove arriva, cioè le dico, è ingiustificabile nel modo più assoluto un comportamento di questo genere, perché appunto il medico omeopata è un medico che aggiunge delle competenze, ma non è che toglie niente, quindi sta che di fronte non dovrebbe, alla situazione... Senta, dottoressa, è giusto dire che le cure omeopatiche possono servire a prevenire alcune malattie, migliorare, anche favorire il benessere, ma non curare malattie potenzialmente mortali come le infezioni o il diabete o i tumori e le polmoniti? Allora, ci sono terapie come appunto, lei mi parla del diabete, chiaramente lì c'è la necessità dell'insulina che l'organismo non è in grado di produrre, quindi lì non si discute, o un intervento chirurgico non si può assolutamente rinviare e va fatto. Poi ci sono terapie in cui la stimolazione della capacità di guarigione dell'organismo può dare dei risultati, in certi casi in modo unico, in certi casi in modo complementare. Cioè se io ho un tumore non posso pensare di intervenire con l'omeopatia soltanto. L'omeopatia potrà essere un aiuto, ma non certamente sostituire una cura che in quel momento serve proprio a mettere in sicurezza il paziente. Allora, ma infatti, il cardine è la sicurezza del paziente. È che lei parla molto bene. La cosa che mi chiedo è esattamente questa. Lei dice complementare, devono coesistere. Mi sembra che in realtà spesso ci sia una specie di battaglia che non mi sembra molto utile fra omeopatia e allopatia. Ed è questo un po' il problema. Nel senso che secondo me il problema più grave del dottor Mecozzi non è tanto il fatto di fare un errore, ma dire se prendi una tachipirina tu non verrai mai più curato da me. Cioè di mettere di nuovo le due medicine una contro l'altra, invece devono coesistere. Esatto. Ma guardi che questo è un problema che non è unilaterale. Quanti medici convenzionali, tra virgolette, si pongono assolutamente in contrapposizione. Verissimo, con l'omeopatia. Anzi, molto quindi di più direi, è molto di più in quella direzione. Allora la cosa, io lo dico sempre, qui si tratta non tanto di un'integrazione, ma di un'interazione. No? Ciascuno porta la sua esperienza e si collabora. Questo è l'optimum, certo. Però è molto difficile da raggiungere, finché non c'è un rispetto reciproco, sarà difficile arrivare a questo. Allora si creano le contrapposizioni, perché io mi arrocco da una parte, l'altro si arrocca dall'altra, ma per il bene del paziente dobbiamo dimenticarcene queste cose, cioè dobbiamo veramente... Dobbiamo chiudere. Noi la ringraziamo, dottoressa Antonia Ronchi, ripeto, grazie, Presidente della Federazione Italiana Associazioni Medici Omeopati, grazie per essere stati con noi. Chioso semplicemente che è vero questo muro contro muro, io personalmente nel muro contro muro vado dal medico che mi salva la vita, se proprio devo scegliere. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra... Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore, scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24, un programma di Pino Insegno. Si può fare. Cronache da un paese migliore. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. But begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. And we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, va bene, l'avete riconosciuto, great. Donald Trump è la qui, super notiziona della settima. E qui negli studi di Milano, volevo dirti. A fianco a te, Carlo. Esatto, a fianco a te. E era l'unico modo per contrastare l'ospite splendido che hai tu. E quindi ho deciso di invitare Donald Trump qui negli studi di Milano. Siamo solamente io e lui, oltre ovviamente volano alla regia, i complimenti allora via Milano, diretti verso Trento, per Federico Rampini, che è qua con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. E naturalmente ricordo che noi siamo in diretta da questa metà della medaglia, dal Festival dell'Economia di Trento, anzi, visto che la città si sta risvegliando a quest'ora di domenica mattina, siamo in piazzetta Pasi, come sempre veniteci a trovare e noi vi accoglieremo a braccia aperte. Federico Rampini, che è venuto qua a raccontare, e lo farà anche oggi in mattinata alle 11, l'America post-Trump e le speranze degli americani che hanno votato per Trump, pensando di riconquistare un posto nel mondo, forse anche un posto di lavoro semplicemente. E insomma, qualche mese da quell'evento, adesso cominciamo a fare un bilancio. Tra l'altro questo sta diventando anche uno spettacolo, possiamo dire, uno spettacolo teatrale, Trump Blues, ne parleremo più avanti, 18 giugno a Bologna, la prima data. Federico, sei stato preceduto però da questa super super notizia dell'abbandono degli accordi di Parigi. È un'altra promessa elettorale che Trump ha mantenuto, possiamo dire così. Questo è uno degli aspetti sconvolgenti, rivoluzionari di Trump. È uno che fa esattamente quello che dice. A noi può indignare, possiamo essere angosciati, sconcertati, orripilati da tutto quello che sta facendo, ma lo aveva detto in campagna elettorale. Quindi per i suoi elettori, per quelli che ci credono, è una conferma che lui è un personaggio coerente, positivamente anomalo. Non è il solito politico che dice una cosa in campagna elettorale e poi fa il contrario appena arriva al governo. Dovrà proprio capitare con l'unico che diceva delle cose pazzesche, se posso commentare. Questo possiamo dirlo. Ma all'americano medio, cosa interessa della questione, per esempio, dei cambiamenti climatici? Perché noi in Europa l'abbiamo molto a cuore, tutti i leader europei hanno confermato gli accordi di Parigi, viviamo in città dove sono le auto che intasano le nostre strade, l'inquinamento lo respiriamo, ma l'operaio del Wisconsin sente la questione del clima e di conseguenza quanto è interessato a questa svolta di Trump? Allora, se posso cominciare con una piccola notazione linguistica, l'americano medio non esiste, come abbiamo visto in questa campagna elettorale. Nel risultato elettorale l'America è profondamente divisa, spaccata, lacerata, quindi esistono tante Americhe, spesso ormai in guerra tra loro, siamo una specie di conflitto tribale tra tante tribù americane, no? L'operaio del Wisconsin, che invece è una tipologia precisa, si è sposato con la casalinga di Voghera, ovviamente. Lui ha votato Trump. Quindi quell'americano lì del cambiamento climatico probabilmente non ci crede. Comunque è diventato un fatto di identificazione tribale da molto tempo per un pezzo di classe operaia, per la destra conservatrice, il negazionismo climatico. È uno dei modi con cui ci si definisce la propria appartenenza a una certa tribù americana. Se io non credo nel cambiamento climatico, vuol dire non sto con l'establishment. Non sto con l'establishment liberal, gli Al Gore, i miliardari della Silicon Valley. E invece la struttura industriale americana, perché facciamo, per citare due esempi, Elon Musk, il capo di Tesla, ha immediatamente detto che non collaborerà più con Trump dopo questa decisione. Quindi l'industria, diciamo, green, industria che basa sulle energie alternative. D'altra parte però Wall Street ha sostanzialmente festeggiato, no, la decisione di Trump. E allora ti chiedo, quale delle due è la verità più vera? Dunque, nell'industria, tra l'altro, si potrebbe aggiungere perfino alcune compagnie petrolifere ormai hanno investito nelle energie rinnovabili. La Exxon aveva chiesto a Trump di rimanere dentro gli accordi di Parigi perché ormai nel loro portafoglio di investimenti ci sta il solare, l'eolico. Poi Parigi gli aveva in un certo senso dato un quadro di certezze. Queste grandi aziende, anche petrolifere, vogliono fare pianificazione a 10 anni, a 20 anni. Gli accordi di Parigi li avevano incorporati nei loro scenari. Quindi, detto questo, Wall Street è salita perché in generale, nel breve termine, questo stracciare gli accordi di Parigi vuol dire ridurre il peso delle regole ambientali, ridurre un po' di costi nel breve. Ma tornando all'operaio del Wisconsin, devo anche dire che, avendo io vissuto in America, ormai è 17 anni fa che mi trasferì a vivere negli Stati Uniti, ho sempre notato come ci sia un divario tra l'ideologia ambientalista, anche nelle zone più verdi come la California, e i consumi degli americani. Gli americani sono uno dei popoli più spreconi in termini. Basta vedere come usano l'aria condizionata d'estate. Basta a vedere manetta, che tipo di lasciamo stare quelli che si possono permettere la Tesla, che comunque è un'auto da ricchi, non dimentichiamole. Certo. È un gioiello di tecnologia l'auto elettrica Tesla. Costa molto caro. 25-30 mila dollari. No, di più. 40. Si arriva ai 100 facilmente con la Tesla, la berlina più bella, più. L'americano medio è abituato a un livello di spreco energetico che un europeo non si permette. Quindi il messaggio: non preoccuparti più di tanto perché i cambiamenti climatici non sono legati ai tuoi comportamenti, beh, insomma, in qualche modo è rassicurante, può essere rassicurante per naturalmente per una civiltà che si avvia al suicidio, alla cosiddetta sesta estinzione. E ringraziamo Federico Lampini anche per l'ironia. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per commentare quello che state sentendo. Siamo in diretta alla Festival dell'Economia di Trento, da questo lato della medaglia. Invece il resto della truppa si trova negli studi a Milano Monterosa, naturalmente, Carlo. Sì, e signori, facciamo le informazioni sul traffico, poi torniamo cercando anche un personaggio della settimana, però come ogni domenica, naturalmente, un personaggio, abbiamo detto, che resiste. Eccoci qua, come annunciato abbiamo gli ascoltatori in linea. Roberto da Lissone, buongiorno, benvenuto. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono arrivato primo, una volta ogni tanto arrivo primo, ma purtroppo so di non aver vinto. Perché? Perché mi avete chiamato subito. Ma vero. Abbiamo sfatato anche questo mito, perché abbiamo due settimane fa. Sentiamo, ho indovinato prestissimo il personaggio. Che sono curioso. Chi è? Allora, per me ho pensato a Francesco Totti, che non si arrende mai, perché dopo 25 anni della Roma adesso ha intenzione di giocare in qualche altra squadra. Forse. Non è chiaro, ma sicuramente noi aspettavamo lo scoop, aspettavamo la notizia. Il nel nome senso, della squadra. Sai che andrà a giocare in un'altra squadra che non farà il dirigente della Roma? No, no, però l'idea sarebbe quella, secondo Totti, di giocare ancora magari un anno, una stagione in qualche altra squadra. Certo, dopo, magari negli Stati Uniti. Ecco, beh, appunto, non so come, però, non so, non so questa, tutti, quanto no, sia come... fondata questa notizia, però può darsi, pare, sembra, si mormora. Roberto, lo chiediamo caso, a Rampini anche. Ecco, sì, perché se parliamo di una squadra americana sicuramente lui lo saprà, ma dallo sguardo vedo che invece c'è del vuoto. Non andrà nel Wisconsin, mi sembra di capire. Non andrà nel Wisconsin, Roberto, sicuramente non era Francesco Totti il nostro personaggio della settimana, grazie però per aver chiamato. È un altro il personaggio, quindi, che resiste. Vediamo se Rosalba dalla provincia di Verona si avvicina. Rosalba? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io non seguo molto lo sport, ma stamattina ho fatto un'associazione di idee, sentendo Valentino Rossi che ogni tanto assaggia l'asfalto e si rialza. Assaggia l'asfalto, è bellissima, Rosalba, complimenti. Insomma, è un po' così. È caduto, insomma. Comunque, ecco. Esatto, e comunque si rialza, continua. Stamattina l'ho sentito come parlare, insomma, del suo secondo posto come se nulla fosse successo, per cui ho fatto un'associazione di idee, mi è venuto in mente lui, ma non so dirvi altro. È senz'altro uno straordinario personaggio che resiste, Valentino Rossi. Esatto, direi che ha detto tutto. Detto, se posso tutto, aiutare, non era lui il personaggio che abbiamo scelto, e non c'è bisogno di essere degli esperti di sport, secondo me, per rispondere al nostro personaggio. Ecco, va bene. Ho aiutato un piccolo troppo? Aiuto. Un piccolo aiuto che ci sta a quest'ora della giornata, 9 e 19 minuti, 800 24 00 24, tra poco magari lo diamo un altro indizio, certo. Tra poco. Però prima voglio fare una domanda a Federico Rampini, che oggi sarà qui a Trento alle 11 per parlare di Trump, stranieri a casa loro, il titolo dell'incontro. Facciamo un piccolo passo indietro però, il G7 di Taormina, Trump protagonista più per le sue assenze forse che per la sua presenza, però insomma di fatto un fallimento, un G7 che segna una svolta, sì, questa immagine, sì, di lui che segue i leader mondiali in macchina dietro di loro, mm-hmm, ma distaccato proprio, sì, fisicamente, è stata abbastanza forte. È un fallimento, certamente, non è il primo G7 a fallire, secondo me i G7 hanno esaurito la loro funzione. L'ultima volta che io li seguo quasi da 20 anni, quindi ahimè comincio anche ad avere una certa nausea, ma comunque l'ultima volta che ricordo un ruolo positivo dei G7 è quando ancora c'era un'egemonia del pensiero unico neoliberista, quindi tra Bush padre e Clinton i G7 furono la cabina di regia per traghettare la Russia verso il capitalismo e la Cina verso la globalizzazione. Queste sono le due ultime grandi operazioni accadute lì dentro, poi hanno smesso di funzionare. Beh, anche abbastanza riuscite, direi. Sì, poi sul giudizio sulla Russia capitalista si possono avere, diciamo, dei bilanci non necessariamente entusiasti, certo, però comunque sì, furono due operazioni volute e certamente riuscite dal punto di vista di chi le comandava. Questo fallimento, ricordiamocelo però, torno ancora al tema iniziale, Trump è uno che mantiene le promesse. Lui è un leader eletto per rinunciare a qualunque tipo di istituzione sovranazionale, per riaffermare il principio della sovranità. Per quella destra americana, la base che ha votato Trump odia tutto ciò che sa di Nazioni Unite, Fondo Monetario, Banca Mondiale, tutte il multilateralismo, tutte perdite di tempo, sprechi. Quindi ancora una volta c'è nella sua furia distruttiva c'è una coerenza. Salutiamo anche Innocenzo Cipolletta, è uno dei fondatori del Festival di Trento, che sta passando. Devo fare una domanda, posso fare, sì, una domanda? Anche due. Perché ci tengo a chiedere a Rampini una cosa che non capisco. Trump e Putin fingono di essere nemici? Sono amici? Nel senso che durante la campagna elettorale, con tutta la questione del Russia Gate, eravamo convintissimi che fossero molto amici. Poi dopo, con le vicissitudini successive, invece ci sembrava che fossero su fronti opposti. Adesso lo stesso Putin è stato un po' freddo per l'uscita dai trattati di Parigi degli Stati Uniti. Insomma, si vogliono bene, ci stanno prendendo in giro, sono d'accordo. Allora, tutta la verità sui rapporti fra Trump e Putin la sapremo chissà quando, forse fra 50 anni, quando saranno desecretati tutti gli archivi di Stato. Comunque è in corso questa indagine, che è stata ripresa in mano da una persona molto seria, Mueller, ex capo dell'FBI. Si andrà avanti con questa inchiesta, che un giorno futuro, qualora i democratici dovessero riconquistare una maggioranza al Congresso, potrebbe anche dare materia per un procedimento di impeachment. Vedremo cosa verrà fuori sul il livello di collusione fra la campagna elettorale di Trump e il governo russo. Ma quindi adesso stanno fingendo di essere nemici? Credo che Trump sia in imbarazzo, più che fingendo. Diciamo, Trump deve rifarsi una certa verginità rispetto a questi sospetti infamanti di inciucio con Putin. Perché durante la campagna, l'operaio del Wisconsin non potrebbe tollerare l'operaio del Wisconsin ha per il momento dei problemi più immediati che riguardano il suo posto di lavoro, il suo salario. Però c'è una destra repubblicana classica, i falchi di politica estera. Faccio un nome che ricordate: John McCain, senatore dell'Arizona, ex candidato contro Obama. Forse non l'operaio 2008. Del Wisconsin, questi, ma l'esercito. Questi altri, ancora, diciamo così, durante 50 anni di guerra fredda hanno avuto la Russia come nemico, e non gli sta bene un presidente che invece certo. è amico di Putin. Ecco, è altrettanto appassionante, ed avere Federico Rampini ospite ci consente di potergli fare anche questa domanda, è questa svolta annunciata a denti stretti, ma non del tutto, insomma, anche abbastanza platealmente, da Angela Merkel proprio nei confronti dell'America di Trump, a precedere il G7, questa schermaglia commerciale con Trump che dice i tedeschi stanno esportando troppe auto sostanzialmente qua in America. È un modo anche questo di essere nazionalisti, quello della Germania, di essere capaci di esportare nel mondo i propri prodotti. Sono schermaglie commerciali, o dobbiamo anche cominciare a preoccuparci? Allora, su questo io ho una posizione molto netta. Qui ha ragione Trump. Questo del eccessivo avanzo commerciale della Germania è un tema che peraltro aveva sostenuto anche Obama. Non dimentichiamo, Obama, io mi ricordo un G20 del 2009 in piena grande crisi economica a Pittsburgh, sotto presidenza americana, in cui uno dei temi più forti che Obama pose fu i grandi macro squilibri commerciali. Cina da una parte, Germania dall'altra, continuano a accumulare degli avanzi commerciali eccessivi, che sono l'altra faccia dei nostri disavanzi, e anche, diciamo, la stagnazione dell'Europa del Sud in parte è una conseguenza di un meccanismo perverso per cui i tedeschi risparmiano troppo. L'economia, proprio l'ABC della macroeconomia ci insegna: un paese che esporta troppo è anche un paese che non consuma abbastanza e quindi ha un eccesso di risparmio. Questo è un tema davvero cruciale per il mondo intero. Ci sono i paesi che esportano troppo, che hanno degli avanzi commerciali eccessivi, e Cina e Germania sono i campioni di questo gioco, non sono virtuosi. Bisogna smetterla di identificare gli avanzi commerciali con la virtù. È un modo per danneggiare tutti gli altri. Ma è sotto traccia, ci sono gli Sherpa che stanno lavorando tra di loro per trovare una soluzione, oppure queste schermaglie possono anche diventare una vera e propria guerra commerciale? Perché insomma, l'ultima volta che Germania e Stati Uniti si sono trovate da parti opposte in uno scontro, non è finita benissimo. No, io adesso scenari di guerra mondiale tra Germania e Stati Uniti francamente non li vedo. Semmai con la Cina si può anche arrivare a immaginare una tensione che sfocia perfino in qualcosa di bellico, ma un po' di protezionismo non guasterebbe per insegnare ai cinesi e ai tedeschi a rispettare un po' di più gli equilibri. Peraltro è già successo negli anni Ottanta. Reagan all'epoca aveva soprattutto il problema del Giappone. I giapponesi esportavano troppo acciaio, esportavano troppe automobili. Reagan ha fatto la voce grossa, ha messo dei contingenti, cioè dei limiti quantitativi al numero di automobili giapponesi che importava, e il risultato è stato che la Toyota è andata a costruire delle fabbriche in America. Ora, guardate che questi giochi qui la Cina li fa da tanti anni. Se una marca tedesca o francese o americana vuol vendere automobili in Cina, il governo cinese gli dice: tu devi venire a fabbricarle qui, altrimenti ti metto dei super dazi. Non solo. Ma mi sembra che ci sia una sanità anche il governo cinese dice alla casa automobilistica straniera: devi anche prenderti un socio cinese al 50% e trasferirgli il tuo know-how tecnologico. Cioè, guardate che quando Trump dice la Cina bara al gioco, non c'è reciprocità, dice una sacrosanta verità, non l'ha neanche scoperta lui. Cioè, allora, se anche noi obbligassimo sì. i cinesi ad avere sempre un socio italiano, credo che tutti gli italiani farebbero i baristi, perché hanno tutti, tutti i locali o i parrucchieri. Il tema del Festival dell'Economia di Trento, di questa edizione, è comunque la salute disuguale. Allora io, Federico Rampini, ti voglio anche chiedere, spiegato a mia nonna, perché un tema di cui si è parlato tantissimo in questi ultimi mesi, anni di campagna elettorale americana e poi dopo con Trump, l'Obamacare. Allora, che diavolo era l'Obamacare e che cosa vuole fare ne Trump? Rimane. Guardate, questa non sono in grado, nessun essere umano è in grado di spiegarvi la sanità americana in pochi minuti. È uno dei sistemi più complicati, farraginosi e inefficienti del mondo. È una sanità mostruosa, prevalentemente privata, quindi con dei costi eccessivi e dei risultati modesti. Obama l'ha un po' migliorata, ma non ha risolto alcuni problemi di fondo, tant'è che ha continuato ad esserci uno strapotere delle compagnie assicurative private, di Big Pharma, i medicinali più costosi del mondo. Aveva un po' migliorato estendendo la copertura a una ventina di milioni di americani che non ce l'avevano, quindi certo un risultato importante. Adesso si ritorna indietro, quindi avremo una sanità ancora peggiore, ma quella di Obama non va idealizzata, perché aveva comunque conservato dei difetti enormi. Ma peggiore nel senso che si tornerà più indietro di Obama? Si tornerà più indietro di Obama, si ritornerà a un sistema dove le compagnie assicurative potranno negare le cure ad alcuni, potranno probabilmente avremo di nuovo quei 20 milioni di americani che avevano conquistato un'assistenza medica, potrebbero perderla perché perderanno diritto a certi sussidi federali che gli consentivano di comprarsi una polizza. Ma è sempre certo. un sistema che passa attraverso il privato, e abbiamo la prova con questa sanità americana che il privato non è necessariamente più efficiente del pubblico. Ci può essere una burocrazia privata che è pazzesca nella sua inefficienza. Io ne so qualcosa, sono un assicurato sanitario da 17 anni in America, e da impazzire. Beh, a conferma di quello che diceva Rampini, abbiamo citata la settimana scorsa, scusate, la rivista scientifica Lancet, che ha stilato una classifica dei sistemi sanitari al mondo, inserendo l'Italia al quinto posto, e l'abbiamo sottolineato molto, non a caso siamo Si Può Fare, il programma delle buone notizie. L'America non ha una buona collocazione assolutamente in questa classifica, quindi questo è Trump Blues, uno spettacolo che debutta il 18 giugno. Trump Blues, c'è una specie di anteprima al Festival di Repubblica delle Idee, Bologna, il 18 giugno, e poi la vera prima nazionale, lì si chiamerà L'età del caos, Trump Blues, sarà al Festival dei Due Mondi di Spoleto il 9 luglio. C'è anche una specie di prova generale per chi volesse vedermi in scena senza i musicisti, ma con un attore americano che si chiama Jacopo Rampini, ecco, che qui è mio volevo figlio, arrivare, perché... c'è anche un momento di... Sì, perché è uno spettacolo sì. in cui tra l'altro va in scena il conflitto generazionale. Mio figlio fa l'attore di mestiere e cioè, non cerca è... di buttarti fuori dal palco sì. e tu invece rientri dall'altra parte. E questo, dicevo, questa specie sì. di prova generale, Sesto Rilevante, il Festival Andersen il 10 giugno. Benissimo, poi il 18 abbiamo detto a Bologna, poi sarai anche a Spoleto. Un'altra cosa voglio chiedere, un'ultima domanda, i vaccini. Due giorni fa qua al Festival di Trento il ministro Lorenzini è stata accolta da centinaia di famiglie con cartelli contro i vaccini, vaccini uguale autismo, una protesta che monta nonostante, anzi forse ancora di più dopo che il governo ha emesso un decreto che porta a 12 i vaccini obbligatori in Italia. Negli Stati Uniti è obbligatorio vaccinarsi? E dunque, queste sono normative che variano da Stato a Stato, in particolare per quanto riguarda l'obbligatorietà al momento dell'iscrizione a scuola, perché la politica scolastica non è federale, ma viene decisa dai singoli Stati. In molti Stati sì, è decisamente, lo è a New York, per esempio, è obbligatorio. Detto questo, abbiamo avuto anche noi campagne contro i vaccini, e Trump naturalmente non si fa mai mancare nulla in termini di fake news e di oscurantismo. In campagna elettorale a un certo momento disse che secondo lui, che aveva sentito dire, perché lui usa sempre queste cose in modo da scaricare la responsabilità, aveva sentito dire che i vaccini possono essere terribili, nocivi, provocare malattie e così via. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, vi abbiamo un po' trascurati, ma tra poco arriveremo a voi. Londra, quello che è accaduto ieri sera, che impressione ti ha fatto? Non so se sei tifoso, stai guardando la partita anche tu come molti. No, ero comunque sintonizzato invece con le news, e devo dire che è la sensazione di una guerra che sarà lunga. Gli inglesi, in fatto di lunghe guerre con il terrorismo, hanno una certa esperienza, perché il terrorismo irlandese l'hanno chiuso l'altro ieri. Sono riusciti a superarlo, ma dopo un periodo molto molto lungo. Possiamo anche dire che le notizie degli ultimi minuti sono che il sindaco di Londra, Khan, ha invitato a difendere la democrazia, naturalmente a non rinviare le imminenti elezioni in Gran Bretagna. I Tory invece, i conservatori, hanno sospeso per il momento la campagna elettorale, come giusto credo che sia in un momento del genere, però insomma, le elezioni non dovrebbero essere a rischio. Si vota tra pochissimo in Gran Bretagna, difficile anche immaginare se questi fatti potranno avere o no una influenza poi su questo voto. Quanto è importante questo voto per gli scenari mondiali, Federico Rampini? Beh, è importante perché chi vince le elezioni in Inghilterra sarà poi la stessa persona che negozia Brexit. Certo. Quindi sì, so che fino a prima di quest'ultimo attentato di ieri sera era in netto calo Theresa May, perché i suoi duelli televisivi con Corbyn, il capo del Labour Party, li ha vinti lui. Però chissà. Adesso probabilmente con i nuovi attentati si ribalterà di nuovo questa situazione. Ma è sempre difficile fare questi calcoli. Per esempio in Francia ci fu quell'attentato ai Champs-Élysées non molto tempo prima delle elezioni, ma non spostò a favore di Marine Le Pen. Non è detto. Federico Rampini, grazie per essere stato con noi in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Grazie, noi facciamo veramente una piccola pausa, non prima però di avere sentito un ascoltatore. Lo sentiamo, Giovanni da Caserta, perché è in attesa credo dalle 8:15. Giovanni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate l'affanno, ma sto facendo solo quello di mio Giorgi, che stamattina sta tornando alla macchina. Ci mancherebbe altro. Se vuoi ci sentiamo dopo la pubblicità. No, come preferisci. Allora vai subito, personaggio della settimana. Tiger Woods, secondo me, Tiger Woods. Perché? No, perché ho fatto un sacco di minciate durante l'ultimo periodo. Minchiate tra virgolette, diciamo, esatto, circostanziamo la minchiata. No, vabbè, adesso precisamente non ricordo l'episodio. Adesso non se lo ricorda, facciamo così Giovanni, tu stai facendo jogging, stai correndo verso la macchina, le minchiate di Tiger Woods non te le ricordi, ma non era lui comunque il personaggio della settimana, quindi chiudiamola qua, tra poco dopo la pubblicità un altro indizio, cerchiamo un personaggio che resiste. Grazie a Federico Rampini. Grazie. Eccoci qui con questa e si può fare. Dobbiamo dare un secondo indizio per il personaggio della settimana che stiamo cercando. Vi ricordiamo di chiamare all'800 24 00 24. Stiamo cercando un personaggio. Il primo indizio era che resiste. Il secondo indizio è un personaggio senza paura. Molto molto bene, mi fai sentire anche Francesco Totti, che è stato citato come possibile personaggio della settimana, abbiamo escluso, però a questo punto già che ci siamo sentiamo quali sono le dichiarazioni alla base. È qui in studio a Milano, ovviamente, esatto. Totti, noi abbiamo Trump, Totti, tu giustamente avevi Rampini, ma noi non siamo da meno. Votino, non so dove va continuo. Come on, come on, come on. We like to sleep all day and party all night. di Restart Project ed è con noi uno dei fondatori di questo movimento europeo, possiamo ben definirlo, Ugo Vallauri. Lui è un italiano che però vive a Londra. Ugo, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Benvenuto. Allora, che cos'è Restart Project? Insomma, voi non siete in concorrenza con i riparatori professionali, quelli che aggiustano televisioni o frullatori o quant'altro. Anche perché praticamente non ce n'è, quindi è anche difficile. Non se ne trovano più. Ci siete solo voi. Ma in però realtà state... esistono ancora, però sì. Il problema è che spesso le persone non riescono a trovare il riparatore giusto per la cosa giusta che devono aggiustare e quindi... Beh, allora possono partecipare ad uno dei vostri party. Assolutamente sì, allora noi abbiamo iniziato ormai quasi 5 anni fa a Londra, quasi per gioco avevamo invitato alcuni amici che avevano competenze informatiche, elettriche, elettroniche e... ci siamo ritrovati con la coda di persone che portavano qualunque oggetto, dalle stampanti alle cuffiette stereo, alle casse, ai giradischi e quant'altro. Le e cuffiette stereo. È ancora oggi che... riparare gli oggetti, Ugo, perché sappiamo di notizie strabilianti, per esempio di questa notizia dei trattori americani che sono stati programmati per non poter essere riparati da soli, in autonomia, cioè devi portarli alla centrale che si collega poi a sua volta via internet con il cuore tecnologico della casa produttrice, rendendo impossibile qualunque intervento. Cioè i produttori diciamo che ce la mettono un po' tutta, eh? Sì, questa è una notizia piuttosto sconcertante perché spiega che il processo di connessione di tutte queste apparecchiature a internet, a tutti gli smart devices, può essere visto in due modi. Può essere visto come un modo dei produttori per avere controllo per sempre su un prodotto così che non è veramente mai tuo e quindi se non lo fai riparare dal loro personale autorizzato, che magari in alcuni casi con i loro costi ridurre o aumentare i costi a dismisura, possono bloccartelo. E questo è nel cuore di una battaglia che negli Stati Uniti è sul diritto alla riparazione. Già in 11 stati ci sono delle proposte di legge per far sì che questo diritto alla riparazione non venga negato, un po' come un diritto fondamentale, però ci vorrà tempo perché i produttori spesso utilizzano delle argomentazioni piuttosto fasulle dicendo che la sicurezza dei consumatori è in gioco, mentre ovviamente certo. Le attività che noi facciamo come Restart Parties e tutto il movimento più esteso mondiale della riparazione comunitaria è fatto con principi di sicurezza notevoli. Noi non diciamo alle persone smontate qualunque elettrodomestico a casa da soli, perché è evidente che in alcuni casi può essere pericoloso. Immagino già le scene fantoziane, sì, questo. Esatto, però in verità ci sono molte cose che intanto facendole con qualcuno che l'ha già fatto prima e che ha più esperienza possono servirci intanto a capire come funzionano i nostri oggetti e a recuperarne veramente l'uso e in alcuni casi quando non sono riparabili ci servono a capire come mai una scelta di design oppure la mancanza di accesso ai pezzi di ricambio possa effettivamente essere la manifestazione di quella che grossolanamente in alcuni casi viene definita obsolescenza programmata. Sì. Senti, ma Ugo, ci spieghi come funzionano questi restart party? Chi viene? Che cosa si porta dietro? Con quali certo. aspettative? E anche come ti spieghi questo grande interesse verso questa possibilità, cioè quella di dare una seconda vita agli oggetti, quindi diciamo di non cedere al consumismo di acquistare immediatamente l'oggetto nuovo, ma di dare invece una seconda possibilità a gli oggetti elettrodomestici non solo già usati, vecchi. Sì, allora gli eventi funzionano in maniera molto semplice in realtà, ci sono di solito almeno 5-6 volontari che hanno competenze diverse e complementari, le persone portano oggetti trasportabili evidentemente, quindi non la loro lavastoviglie e si mettono pazientemente in coda e nel frattempo si chiamano feste, parties, perché sono festosi, in realtà c'è una condivisione continua, per cui mentre aspetti di imparare come velocizzare il tuo PC, puoi vedere com'è una radio all'interno quando la smonti e capire come mai magari una radio digitale diventa meno riparabile di una vecchia radio FM tradizionale. Allora, I cittadini desiderano recuperare controllo sui loro prodotti perché evidentemente si è visto una riduzione nel tempo della durata dei prodotti, questo è nelle cose. E in alcuni casi è effettivamente legato a delle scelte da parte dei produttori che mettono i pezzi di ricambio in vendita a prezzi troppo esosi o a volte smettono di renderli disponibili. E quindi c'è una voglia di giustizia in un certo senso. Sì. Ma se posso dire, la cosa più straordinaria che trovo in questo in questa organizzazione della quale vi state occupando è quello che stavi appena dicendo, cioè che è la condivisione, perché non è che uno viene e molla il proprio oggetto e aspetta che venga riparato, ma ho letto che in questi, cioè, intanto chi porta l'oggetto deve anche occuparsi di riparare il proprio oggetto di modo che impari, e mi viene un po' in mente, non so, io mi ricordo mio padre che ci si metteva in cucina di solito e si diceva proviamo a ripararlo, e mi sembra che sia molto questo concetto qua, cioè proviamo a ripararlo, non è nemmeno detto che si riesca a ripararlo, ma il gioco e la questione è proviamo ad aprirlo, a capire come funziona e a fare in modo che continui a funzionare. Questo mi sembra molto bello. Sì, e infatti è al cuore dell'iniziativa, perché intanto recuperare una dimestichezza con la tecnologia che ci circonda sempre di più e ne siamo sempre più dipendenti in un certo senso, quindi è necessario che la comprendiamo meglio. In alcuni casi, infatti, le cose non sono rotte in maniera definitiva, però perdiamo in un certo senso il nostro muscolo alla riparazione, come l'abbiamo definito in inglese, ovvero pensare anche solo che sia possibile ripararle. E quindi in realtà i nostri eventi, noi ripariamo circa il 50% delle cose, cosa che peraltro dimostra come sia cruciale un ritorno a un'economia della riparazione più estesa, perché questi eventi non sostituiscono la presenza di una serie di riparatori commerciali competitivi e esperti che riescano ad aggiustare gli altri prodotti che noi non aggiustiamo. Certo. Anzi, e poi comunque facciamo eventi una volta al mese in ogni città circa, quindi non togliamo certo mercato a ecco, loro. Allora anzi, diamo un appuntamento, Restart Project, il prossimo Restart Party dove si terrà, Ugo Vallauri? Allora, i prossimi in Italia sono sabato prossimo a Milano dalle 15 alle 18 in dove via che veniamo? Agordà. Dove che ci siamo anche io e Carlo? È in via Agordà nell'ambito dello Smart Weekend. E poi, quindi in Martesana, e poi ci sarà un primo evento a Livorno sempre sabato prossimo, il 10 giugno sempre dalle 15 alle 18. In realtà, grazie Ugo Vallauri, Restart Project, prossimo appuntamento quindi sabato prossimo a Milano. Se avete un oggetto da recuperare, da restaurare, a cui dare una seconda vita, diamo un altro indizio per il personaggio della settimana, che oggi forse complici la trasferta di Trento, abbiamo un po' trascurato gli ascoltatori, credo forse, ha un cuore grande il nostro personaggio. Questo indizio è molto preciso. Sì. 800 24 00 24, siamo qua dopo il traffico tra un attimo. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Abbiamo l'ascoltatrice Vaifra da Fermo? Buongiorno. Sì, sono qua. Eccola. Buongiorno. Eccola. Buongiorno. Prego, prego. Secondo me è Flavio in Cina. Il personaggio. E per quale notizia? Dunque, la notizia circola da tanto, quindi da un po' di tempo, e resiste contro tutti e contro tutto. E poi già un cuore grandissimo, ma il secondo indizio è arrivato dopo, Certo, certo. Beh, insomma, è sicuramente all'onore della cronaca, non si è parlato d'altro che di Flavio Insinna, del video di Striscia la Notizia, sì, dei suoi fuori onda, della sua difesa Berlinguer, carta bianca, esatto, da Bianca Berlinguer. Ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Grazie, potrei fare gli auguri a mio figlio che oggi finisce 37 anni? Certo, li finisce. Sì, assolutamente. 24? Certo. Grazie. Li finisce, quindi ne compie 38? No, ne compie 37... più o meno, quindi verso le 22:30 di questa sera. Ah, perfetto, alle 22:30, quindi perfetto. Facciamo tanti auguri. Grazie, stiamo ancora cercando un personaggio della settimana che resiste, ha un cuore grande, 800 24 0024, vediamo se riusciamo negli ultimi minuti di trasmissione a indovinare. make a better place with my own two hands. Make a kinder place. Allora, loro sono sette semplici comuni cittadini di Pergine e del Trentino che hanno in mente un'impresa forse impossibile, quella di rilevare, acquistare, comprare un monumento, un bene di, questa, di questo territorio, il castello di Pergine. Allora è con noi, lo salutiamo, Denis Fontanari, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Il comitato Castel Pergine, che perché volete fare questo? Perché i vecchi proprietari, che pure hanno ristrutturato questo castello, lo hanno, hanno garantito anche che fosse aperto al pubblico per un po', adesso che fanno? Lo vendono? Lo vendono, sì. Il castello è stato venduto dal comune nel 1956 ad un privato, un perginese che era emigrato in Svizzera. E quindi da quella data il castello è privato, ma è gestito in maniera, diciamo, anche abbastanza illuminata, perché è diventato un ottimo ristorante, albergo, e soprattutto è aperto al pubblico, si svolgono lì tanti eventi culturali. In questo momento la proprietà però ha deciso di venderlo, e quindi noi ci siamo detti è il momento in cui bisogna muoversi come popolazione, come cittadinanza, per farlo diventare un bene pubblico. Si parla tanto di beni pubblici. Quindi una storia quasi gemella, Carlo, di quella del castello di San Mezzano. Certo. Che è un castello forse più noto, anche dal punto di vista architettonico, più famoso. Ma io ne sono anche molto vicino, perché lo conosco Castel Pergine, ci ho recitato da ragazzino alla fine degli anni 90 in questa manifestazione che si chiamava Se un'estate, se un castello d'estate in Trentino, una cosa di questo tipo. Ma infatti ti aspettiamo adesso a recitare per lanciare questa iniziativa. No, e quindi quando ho visto questa cosa ero sì un po' che ci terrei a comprarne un pezzettino anch'io, quindi mi sembra una cosa straordinaria. Avete lanciato una sottoscrizione affinché questo bene del territorio resti al territorio. Esatto, abbiamo lanciato una sottoscrizione popolare, abbiamo anche indicato delle possibili cifre, ma ovviamente non sono vincolanti, ognuno può dare quello che vuole, però abbiamo detto puoi diventare amico del castello con 100 euro, puoi diventare sostenitore del castello con 300 e benefattore del castello con 1000 euro. Ma non c'è il FAI anche a Castel Pergine? Non c'è il FAI l'abbiamo contattato, siamo in stretti rapporti. No, no, perché pensavo che fosse un bene del FAI in realtà, invece no, dicendo che è privato. In questo momento è un bene privato, pur aperto al pubblico, e certo. Il FAI ovviamente l'abbiamo contattato perché in queste iniziative... Il FAI può molto, ma non sono... può, naturalmente, esatto. È tutto in tutta e quindi, Italia. Quindi col FAI vogliamo collaborare, però qui è una comunità che vuole riappropriarsi del castello. L'intento è nobile assolutamente, ma quanto ci vuole? Quanto grano ci vuole per arrivare? Allora, non possiamo dire la cifra esatta perché siamo vincolati da un patto di segretezza. L'abbiamo concordata con la proprietà, sono alcuni milioni di euro, non sono delle cifre impossibili, però noi pensiamo di recuperare dalla cittadinanza. La cittadinanza poi da tutta Italia, possibilmente vengono versamenti anche dalla Svizzera, circa 1 milione di euro, che non è la cifra che serve, perché poi apriremo alle imprese, speriamo all'intervento degli enti pubblici. Crediamo che la cifra di 1 milione di euro dalla cittadinanza e dalla popolazione sia quella l'obiettivo da raggiungere. Cosa avete in mente? Cosa potrebbe diventare il castello di Pergine qualora questa sottoscrizione dovesse decollare? Intanto partiamo da quello che c'è e che è tantissimo, cioè un castello che è diventato luogo di cultura e luogo anche di buona ospitalità, con delle regole del turismo sostenibile, nel rispetto di quella che è l'architettura e la storia di in linea di quel con luogo. Quello che è il Trentino anche, esatto, diciamolo, certo. Esatto, e quindi partire da quello per poi sviluppare delle iniziative che vanno nel verso di ampliare l'offerta culturale. Già si fa una mostra d'arte contemporanea molto importante, si organizzano eventi culturali, ma vogliamo che diventi una cosa... Però, scusami, perché siamo in chiusura, in pochi secondi, chi volesse dare una mano, dove va? Su quale sito? Basta andare sul sito www.comitatocastelpergine.it e lì c'è tutta trovate la storia, tutto. Tutta la modalità e le modalità di adesione. Trovate tutto. Grazie, grazie a Denis mille. Fontanari. Io ringrazio grazie. Anche a Milano Carmelo Lucella, Lorenzo Nespoli, Claudia Schiattone, qui da Trento, Elena Ligios, Andrea Roccabella. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. Buona domenica. E a chi ci ascolta in podcast. Ciao.